Sentieri. Percorsi tematici per esplorare l'universo multiculturale della Campania. Un caro saluto da Giulia Scalona al microfono, in compagnia del tecnico del suono Antonio Cortazzo e Michele Piastrella in redazione. Per questa seconda puntata della serie Sentieri siamo in trasferta ad Avellino, nella bellissima sala blu del carcere borbonico. L'occasione che oggi 8 marzo ci ha portato qui è il convegno dal titolo Immigrazione e integrazione sociale nelle aree rurali, due temi che non si trovano così spesso associati assieme, soprattutto nell'attuale panorama del dibattito politico e sociale, che però nelle aree interne in particolare possono essere senza dubbio motore di sviluppo territoriale, così come ampiamente dimostrato da numerose esperienze regionali e nazionali. Ascolterete l'audio integrale della conferenza con alcuni inserti sonori selezionati dalla nostra radio. Le voci che ascolterete sono di Maurizio Reveruzzi, il coordinatore del GAL di Partenio, che introdurrà i diversi relatori, Adele Galdo, coordinatrice dello SPRAR di Torrioni, psicologa che da anni si occupa di migrazione e integrazioni in Campania tra gli operatori del settore. Non ha sicuramente bisogno di presentazione. Ashu Rendi, mediatore culturale SPRAR di Sant'Angelo a Scala e studente di giurisprudenza. Giuseppe Lombardi, sindaco di Perturo Irpino, il piccolo comune che forse qualcuno ricorderà, ha conferito la cittadinanza onoraria di Diego Bianchi di Propaganda Live. Carlo Mele, delegato regionale della Caritas Campania. Luca Beatrice, presidente del GAL Partenio, che è l'ente organizzatore della conferenza. E le conclusioni poi saranno affidate a Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, città dell'accoglienza dal cuore e dal porto aperto. E maggiori dettagli su questo evento e sui prossimi appuntamenti li troverete sul sito www.stranierincampagna.it e buon ascolto a tutti e ancora un caro saluto. Buonasera a tutti, ringrazio tutti i presenti per la partecipazione importante al dibattito di questa sera, un dibattito incentrato sull'immigrazione e sulla inclusione sociale nelle aree rurali, fenomeni questi che soprattutto il primo non gli si dà quella importanza che invece merita, soprattutto da un punto di vista delle opportunità che può offrire alle aree rurali, ma molto spesso appunto si tende ad affrontare la tematica per quanto concerne invece le emergenze, i flussi, la gestione dei flussi e dell'accoglienza. Ebbene, questa sera abbiamo, dopo la mia introduzione, ne farò una brevissima, abbiamo gli interventi della coordinatrice dello SPRAR di Torrioni, Adele Galdo. Un attimo scalpita già per esporre la sua illustrazione. A seguire il sindaco di Perturo Irpino, Giuseppe Lombardi. Come sapete, il Perturo Irpino è uno dei comuni che gestisce un progetto SPRAR. Poi c'è Ashu Rendi, mediatore culturale dello SPRAR di Sant'Angelo a Scala. A seguire l'intervento del delegato regionale della Caritas Campania, Carlo Mele. E poi c'è il presidente del GAL Partenio, Luca Beatrice, e conclude il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Dunque, giusto una qualche considerazione per dare il via al confronto di questa sera per capire in che modo e se oggettivamente il fenomeno degli immigrati costituisce una opportunità per le nostre aree oppure no, oppure appunto è soltanto un rischio o una minaccia. Ebbene, occorre considerare che sempre più spesso la tematica viene affrontata per quello che possono rappresentare la stampa, i media, no? Queste grosse presenze nei grossi centri, nelle città metropolitane e poco, se non appunto in maniera del tutto ininfluente, viene raccontata la storia di come le aree interne, le aree rurali vivono questo fenomeno. Ebbene, come dire, in qualche modo il Gal Partenio, che non è altro che una sigla, gruppo di azione locale, ed è un consorzio misto pubblico-privato, opera attraverso una strategia di sviluppo locale che è innovativa, integrata e soprattutto multidisciplinare. Che cosa fa in realtà? Cerca di attuare attraverso una strategia che è frutto di un'elaborazione progettuale attraverso un metodo della partecipazione, della cittadinanza attiva, e dunque cerca poi di promuovere degli interventi assolutamente pionieristici. Ebbene, è da un po' di tempo che il GAL avverte sempre più, come dire, dei fenomeni che hanno caratterizzato e che caratterizzano tutt'oggi i nostri territori, cioè il fenomeno dello spopolamento delle aree interne e quello di un indice di vecchiaia estremamente elevato. Allora, come coniugare queste criticità? Cioè, in che modo, ecco, dare delle risposte che siano oggettivamente opportunità di sviluppo? Ebbene, le letterature, diciamo, che oramai si stanno sempre più diffondendo su queste tematiche, ci raccontano una realtà che è fatta di opportunità, o se non appunto delle necessarie opportunità per le nostre aree. Vedremo poi successivamente dalla narrazione che ci farà Adele Galdo, Giuseppe Lombardi, Randì, Carlo Mele, come funzionano gli SPRAR e oggettivamente come è un elemento di arricchimento per il territorio, con la possibilità che essi danno di poter ridisegnare, ecco, un'attività in un piccolo centro delle aree interne. Un'ultima considerazione. In qualche modo, diciamo che gli elementi di criticità a cui prima facevo riferimento, ovvero spopolamento, perché spesso i giovani vanno via in quanto non riescono a trovare occupazione, purtroppo c'è stato una scarsa investimento nella ricerca, nell'innovazione. Dunque il profilo dei nostri ragazzi, dei nostri giovani è troppo elevato talvolta per trovare la giusta collocazione. Allora vanno via, vanno, espatriano, e questo è però un problema, cioè capire quali politiche poter attivare per farli ritornare, perché poi diventa, questo sì, un riapproparsi delle proprie radici e far crescere insieme il nostro territorio. Ma c'è un altro aspetto, che è quello relativo alla possibilità, attraverso dei progetti, come dire, intelligenti da portare avanti insieme, GAL, SPRAR, di ricollocare in qualche modo, ecco, qui viene fuori la risorsa immigrato, in quelle sacche di attività produttive di lavoro che ormai sono vuote, cioè nessuno più fa. Così come potrebbe essere estremamente utile riqualificare i servizi per le aree interne, immagino alle scuole e ai servizi alla popolazione, una popolazione che è sempre più anziana. Insomma, in qualche modo può essere davvero una risorsa per rivitalizzare, ecco, in linea generale, i borghi delle aree rurali. Io per ora mi fermo qui e chiamerei appunto Adele Galdo per un suo intervento. Dicevamo prima col Presidente Beatrice di dare comunque una traccia libera in maniera tale che ognuno possa raccontare la propria esperienza. Grazie. Siamo meridionale, siamo meridionale. Siamo meridionale, siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. Siamo meridionale. abituati male. Sospettate di noi, sospettate. Fate, fate pure, fate come vi pare. Siamo meridionali, dovete costruire le centrali nucleari. Siamo qua noi, approfittate di noi. Che fate? Non ne approfittate? Siamo mezze marocchine, che voi? Teniamo l'Africa vicina. E sappiamo creature brutte, nere, ricciolate, ci vengono naturalmente a fumegate. Siamo meridionale e teniamo tutto qua dalla terza elementare. Approfittate di noi, che siamo la vostra merda. E se va bene, guarda perda. Tradizionale, cardinale e pesco, i mezzi bianchi e mezzi neri, a quelli che non son preti sono carabinieri. Sentite come parla mamma là. Abbiamo nato ad un paese meridionale, se ci date aiuto ci bastano un mese, faremo tutto quanto a piemontese. Né, nel meridionale stiamo dappertutto, se ci danno una mano ci pigliamo tutto. Siamo neri brutti, inutili nei, e rubino e palle picci delle prei. Ehi, un meridionale sos come il ragno, coltiviamo pomodori di dei vaschi e bagni. La fatica non ammazza chi la odia e chi la apprezza, ma un meridionale ci puzza perché, perché siamo meridionale e teniamo una resistenza eccezionale. Digiuniamo tutto il mese e chi se ne importa, campando qua canzone. E siamo bene uguale senza neanche la lira. E già la polizia resta chi respira. So chiacchiere che Dio si è scordato di noi. Non stiamo bene uguale, lo scrivono i giornali. E stiamo bene uguale in queste condizioni. Disperatamente alla ricerca di un nuovo padrone. Fa pena la pessica e stare come un animale. Non siamo bene uguale, non siamo bene uguale. Bisogna la famiglia per stare. Soffermerò su due o tre punti che per me sono importanti e che nascono dalla mia esperienza. Vivendo nelle aree rurali, noi tocchiamo con mano i cambiamenti che negli ultimi anni stanno avvenendo, ovvero quello di cui tu parlavi, invecchiamento, abbandono, desertificazione dei servizi. E trovarmi qui con tutti voi che avete dei ruoli differenti e che soprattutto come primo azione molti di voi non hanno quella dell'immigrazione, mi fa sperare che le aree rurali possano trovare quel tassello mancante che unisce le politiche dell'immigrazione allo sviluppo del territorio. Io ho studiato un po' i programmi europei, in particolare il programma Leader Maurizio, e ho visto che ad oggi si è speso non più del 30%, me lo confermi? E che è aperto, abbiamo una buona notizia, ai cittadini dei paesi terzi. Quindi che cosa vuol dire? Che studiando queste misure noi possiamo trovare una strada che non sia quella da titolo di giornale per integrare i ragazzi che arrivano in Italia, ma soprattutto che sono in Italia e che oggi vivono una situazione molto drammatica. Quindi ringrazio il GAP Partenio per aver pensato a questo ed è la ragione per cui noi continuiamo ad insistere nel nostro campo d'azione. Io sono la coordinatrice dello SPRAR di Torrioni dedicato a Valeria Solesin, che nasce nel 2012. Noi non nasciamo dal nulla, ma abbiamo alle spalle una storia nel appunto terzo settore. Il consorzio Percorsi nasce nel 2002 come opera segno della Caritas e sin dal principio il nostro obiettivo qual era? Era quello di creare delle azioni che potessero rivolgersi a persone sicuramente che ne hanno bisogno, ma che le traghettassero in una emancipazione definitiva del proprio disagio. Infatti è così che nasce anche la prima fattoria sociale a Prato La Serra, per superare la logica stop and go del sistema pubblico e della progettazione. Ed è per questo che abbiamo deciso di partecipare ai bandi SPRAR e di tentare l'affidamento per trasformare un progetto in sviluppo. Dal 2016 noi abbiamo accolto una trentina di ragazzi. Nel 90% dei casi questi ragazzi oggi hanno un permesso di soggiorno, lavorano e sono integrati. Che cosa succede? Allora, perché oggi siamo in difficoltà? Perché i nostri stessi ragazzi con questa nuova legge rischiano di diventare clandestini. Partiamo dal principio. Che cos'è lo SPRAR? Lo SPRAR è un'accoglienza di secondo livello ed è un sistema che io definisco pubblico perché è l'ente comune che risponde ad un bando del Ministero e poi darà in gestione questo servizio. Lo SPRAR nasce in realtà già quasi 20 anni. Si formalizza con la legge nel 2002, ma arriva all'orecchio delle persone soltanto nel 2013, quando con la fine dell'emergenza Nord Africa si decide di creare un legame tra il tecnico e la politica e quindi di investire di più. Che cosa è successo nel 2013? C'erano soltanto 3.000 SPRAR, nel 2014, proprio perché si è investito, diventano 16.000, fino ad oggi ad averne ben 36.000, non oggi, perdonatemi, il 2018, perché oggi siamo di nuovo all'anno zero, quindi nel 2018. Chi lavora nel settore sa bene che dal 2018 in poi con Salvini è stato tutto bloccato. Noi abbiamo partecipato ad altri bandi, ma non abbiamo esiti. La domanda che io vi pongo è: se lo SPRAR era una buona pratica, un sistema virtuoso, i ragazzi che sono stati in uno SPRAR sanno bene che anche per comprare una palla per giocare a calcio noi dobbiamo fare richiesta al Ministero e soprattutto dobbiamo pagare tramite carta bonifici, quindi tutto deve essere rendicontato. Io mi chiedo come mai con questa legge si va a potenziare la parte malata dell'accoglienza, quella che fa lucro, e depotenziare lo SPRAR. Allora, dobbiamo cercare insieme di combattere, di attuare una contronarrazione di questi grandi titoli che oramai da anni ci bombardano e ci fanno credere che il nostro problema sono gli immigrati. Io vi invito a girare l'imbuto e a guardare in un'ottica più grande. Il vostro problema è l'immigrato, o sono i servizi che mancano, o sono la natalità che non c'è, o sono i giovani che non riescono a scegliere se restare nella propria terra oppure andare via. Questo è un paradosso e questo è un paradosso che ci deve far riflettere, soprattutto perché aumenteranno quelle che sono le spese a carico dei comuni. Voi dovete pensare che con la nuova legge noi non avremmo più la protezione umanitaria. Rendi, che è qui con noi, ha una protezione umanitaria, lavora, va all'università, ma questo poi ce lo dirà lui. Rischia di diventare un clandestino, rischia di vedere vanificato tutto quello che è il suo programma di inserimento. Un'altra informazione chiave dello SPRAR è che lo SPRAR attua un percorso di inserimento socio-lavorativo e allo stesso tempo un percorso che li accompagna all'esterno, ovvero non è il limbo del centro di accoglienza straordinario, ma è un processo attivo che porta alla definizione di se stessi e al potenziamento di determinate qualità. Per quanto riguarda lo SPRAR di Torrioni, molti ci definiscono buona pratica. Noi non abbiamo fatto altro che rispettare le regole dello SPRAR e i diritti delle persone. Siamo diventati buona pratica. Per me non abbiamo fatto niente di straordinario, perché questo è il mio lavoro ed è il lavoro degli operatori, tutti che sono nello SPRAR. Un'altra cosa importante è che lo SPRAR adesso non è più SPRAR, ma è SIPROIMI, e quindi noi non potremmo più accogliere né richiedenti né persone che hanno avuto la protezione umanitaria. Questo fa sì che si riverseranno tutte queste persone in strada, all'esterno, in cerca di un'occasione di riscatto, e probabilmente qualcuno di loro andrà anche nelle maglie della criminalità, dello sfruttamento. Questo è quello che stiamo costruendo, questa è la società che stiamo costruendo. Io invito tutti voi, e concludo, a sentirvi addosso la responsabilità della narrazione. Uscite di qua e raccontate quello che avete sentito. Adesso parlerà Randy, interrompetelo, fategli le domande. Abbiamo qui tra noi tantissimi ospiti degli SPRAR, ma credo anche qualcuno di qualche CAS. Chiediamo a loro che cos'è l'accoglienza e chiediamo a loro come si sta in Italia e perché sono arrivati in Italia. Nessuno abbandona per sfizio, per gioco, il proprio paese, ma è un'azione che è dettata da, nella maggior parte dei casi, condizioni disumane in cui si vivono e a cui scappano. A casa mi non ci può sta spazio vitale, identità razziale, che tutto quando tenono l'orgoglio nazionale. Fatalo, lo, perché non ci può sta. Fatalo, lo, a casa mi non ci può sta. Fatalo, ciò, non posso manco risciata. Razza, cultura, nascita, nazione, sono diventata droga, la popolazione. Fatalo, lo, non hai capito. Fatalo, fatalo, lo, insieme a noi non ci può sta. Fatalo, ciò, manca per noi non ce ne sta. Se ce ne foto, si, te fai. Se tamo si tamoro ne creature, si non tiene manca e panne. Di donde chi niente, e chi ottenerò non te lo farò. Di donde chi niente, e nessuno non te lo farà. Non c'è sta fatica, siete la Luca. Non c'è sta neronare, siete la Luca. L'unica soluzione è dicere fatalo, la fatica. Non c'è posta, fatalo, la. A casa mi non c'è posta, fatalo, ciò. Non posso manco ricciata. Razza, cultura, nascita, nazione. Sono diventata droga, la popolazione. Fatalo, la. Non hai capito, fatalo, fatalo, la. Insieme a noi non c'è posta, fatalo, ciò. Manca per noi non ce ne sta. Fatalo, fatalo, che siano una civiltà. Non c'è sta spazio, manca pa' diversità. Tutto inserrato anche a costo di sparare. Rinascio serrato, monoculturale. Non vessito, sì, ma tutto quanto è uguale. Non mezzo sto sistema che ci ha fatto tutto schiava. E allora è venuto un momento, ci ha mischia a costruire una società che non dice fatalo. Non c'è posta, fatalo, la. A casa mi non c'è posta, fatalo, ciò. Non posso manco ricciata. Razza, cultura, nascita, nazione. Sto diventata droga, la popolazione. Fatalo, la. Non mi capito, fatalo, fatalo, la. Insieme a noi non c'è posta, fatalo, ciò. Manca per noi non ce ne sta. C'è una foto, si, te pensi come si te morre. Le creature si non tiene manca e panno. E chi otterrà non te lo farà. nessuno, non ho paura. Grazie Adele, grazie. Allora, prego Lombardi. In realtà, diciamo, i comuni medio-piccoli rappresentano in qualche modo lo zoccolo duro oggigiorno del sistema SPRAR, vale a dire sono circa 1800 comuni in tutta Italia, la metà dei quali ha una popolazione che è al di sotto dei 5.000 abitanti. Dunque va da sé che rappresentano lo zoccolo, effettivamente lo zoccolo duro. L'esperienza di un comune così piccolo, ma soprattutto quello che ne sarà, se ci sarà un futuro dopo questo decreto 113, decreto legge 113. Allora, buonasera a tutti. Sono Giuseppe Lombardi, sindaco del comune di Petruro Irpino, il più piccolo dopo Calitri della provincia di Avellino. Ringrazio il presidente del GAL per l'opportunità, per l'invito. Saluto i presenti, il direttore, il sindaco di Napoli e tutti i presenti. Che dire, noi questa è la seconda opportunità che il GAL Partenio, noi facciamo parte del GAL Partenio come comune, siamo aderenti al GAL Partenio. L'altro evento si è svolto ad Altavilla, un altro bel evento, complimenti Presidente, in maniera ufficiale per quello che hai fatto sull'agricoltura e sull'ambiente. Un altro tema era l'immigrazione e quindi il Presidente ha voluto la mia testimonianza, perché Petruro è stato uno dei primi comuni che ha aderito al progetto SPRAR nel 2016. Diciamo, noi non siamo un paese, la maggior parte degli abitanti supera i 60 anni, insomma, quindi eravamo circa 900 abitanti nel 60, ma dagli anni 60 ad oggi, come un po' tutta l'Irpina, si è un po' più, abbiamo avuto il problema dello spopolamento. Quindi abbiamo pensato di aderire al progetto SPRAR e di accogliere famiglie. All'inizio non vi nego che il problema, se problema si può chiamare perché si parla di persone, insomma, c'è stato la gente, insomma, soprattutto gli anziani hanno avuto poi in media per il messaggio che la televisione passava, diceva adesso viene l'uomo nero, vengono i ladri, c'è la persona che viene a stuprare le nostre ragazze e quant'altro. Noi abbiamo fatto un passaggio molto, io e i miei consiglieri abbiamo fatto un passaggio molto semplice. Siamo andati casa per casa, si è potuto fare, a Napoli penso proprio di no, ma a Petruro si è potuto fare questo lavoro, e quindi abbiamo fatto capire che c'era con lo SPRAR l'opportunità di dare un futuro sia ai nostri ragazzi che agli ospiti. Noi abbiamo fatto un progetto per 20 persone, quindi per 5 famiglie adesso ci sono, tra siriani, afghani e nigeriani. E contestualmente abbiamo deciso di, grazie anche al consorzio, perché noi il progetto l'abbiamo, diciamo, portato avanti con il consorzio Sale della Terra, la Caritas di Benevento, il consorzio Sale della Terra, a cui afferiscono altri comuni, tra cui quelli più vicini a Petruro sono Santa Paolina, che saluto, ho visto il sindaco di Rocca, e abbiamo formato la rete dei piccoli comuni del Welcome. Grazie al consorzio abbiamo formato una cooperativa che abbiamo chiamato Tralci di Vite, perché noi, diciamo, siamo partiti dal presupposto che il nostro si doveva partire da quello che si aveva. Dovete sapere che con lo SPRAR collaborano 7 figure professionali, quasi 6 o 7, quindi abbiamo dato la possibilità anche ai nostri ragazzi di potersi creare un futuro a Petruro perché collaborano con lo SPRAR, ma in special modo abbiamo formato la cooperativa partendo dal presupposto che abbiamo, noi facciamo parte degli 8 comuni del Greco di Tufo, quindi la cooperativa è stata formata da persone del posto, da ragazzi del posto e da migranti, per fare in modo che si partisse dalla coltivazione delle nostre terre per poi produrre, per cercare di fare attività e quindi di produrre soprattutto in agricoltura il nostro greco di tufo. Grazie al consorzio che ci ha dato una grossa mano, perché grazie al consorzio abbiamo potuto, diciamo, ottenere dei finanziamenti. E come sapete gli SPRAR, ha spiegato bene la dottoressa, funzionano in maniera molto, molto, non perché l'ha fatto Petruro, ma funzionano in maniera molto precisa, nel senso che sia gli ospiti che hanno una formazione, quindi si crea realmente l'inserimento. All'inizio c'è stato qualche malumore, però le cose poi pian piano si sono appianate e la cosa sta andando veramente bene. Insomma, siamo contenti, con la speranza che i nostri ragazzi possano restare qui a Petruro, crearsi un futuro a Petruro, e soprattutto stiamo cercando di ampliare la cooperativa per fare in modo che sia i nostri ragazzi che i nostri amici siriani possano restare con noi e creare un futuro a Petruro. Questo è, in breve quello che è stata la nostra esperienza. Dall'altro canto, invece, l'altro giorno siamo stati a pranzo con un amico dicendo: guarda, ma forse tu il problema ce l'hai, perché la cooperativa non ha dato, o meglio, lo SPAR non ha dato i risultati sperati. Invece io penso che si deve continuare, si deve dare il messaggio, perché il messaggio che arriva adesso è negativo, soprattutto con la nuova legge che il nostro ministro ha fatto insieme al governo 5 Stelle, è negativissimo. Il messaggio deve essere quello di accogliere, di dare l'opportunità a una persona che vuol farsi un futuro che, perché dovete, l'Italia è formata da persone che hanno, negli anni passati, sono andati all'estero a crearsi il futuro. Non vedo perché un nigeriano o un afghano non possa crearsi il futuro qui in Italia. Grazie. Penso che può intervenire anche. No, segue quello che ha introdotto Adele e Galdo. Prego, prego. Buonasera a tutti. Buonasera. Mi chiamo Randy, io vengo dal Camerun, ho 19 anni e sono uno studente della Federico II nel Dipartimento di Giurisprudenza. La strada che mi porta qua oggi, dinanzi a voi, parte da Yaoundé, la capitale del Camerun, dove un ragazzino di 16 anni ha conseguito la maturità con 2 anni di anticipo. E è lì che nasce la mia passione per la giurisprudenza. Come potete immaginare, il mio viaggio non è tanto diverso da quello degli altri ragazzi, dalle altre parti dell'Africa, non per dire il mondo, dove i ragazzi partono con pochi soldi, tante speranze, con uno scopo molto importante, che è la ricerca della felicità. I nostri viaggi si somigliano, sono lunghissimi, passiamo da paese a paese. Arrivato in Libia c'è l'incarcerazione, il barcone che ci porta in Italia. Ma se sono qua oggi non è per raccontarvi delle storie che probabilmente avete sentito, magari da alcuni migranti, oppure quelli che lavorano presso le cooperative. Sì, sono qua oggi è per raccontarvi di quello che succede dopo. Dopo. Cioè, la nostra volontà, i nostri impegni, le nostre paure e soprattutto la nostra passione. Basandomi sempre nella mia esperienza come mediatore culturale e come immigrato, prima i migranti che sbarcavano qua in Italia erano se così dalle associazioni nazionali e internazionali che prevenivano ogni malfunzionamento dei balconi, prestavano le cure mediche e c'era pure l'identificazione di tutti i migranti. Ma con l'entrata del famoso decreto Salvini, che è diventato legge, più precisamente la legge 113 del 2018, queste prestazioni sono scomparse. Esperienza come mediatore culturale, c'è la cancellazione del permesso di soggiorno per motivo umanitario, che ogni ragazzo che va in commissione, tutti, l'esito è omogeneo, significa tutti hanno un esito negativo. E il secondo diniego, i ragazzi sono costretti a lasciare lo SPRA, dove devono andare per strada, e dopo alimenta l'illegalità, perché è la sola cosa che loro possono fare, perché non hanno i documenti per lavorare. La seconda cosa, c'è un limite nell'accesso nei SPRA, è che io ritengo che sia il sistema efficace per l'integrazione, lo SPRA. Ma adesso con il decreto legge c'è un limite, perché quelli che sono consentiti di accedere a SPRA sono quelli beneficiari della protezione internazionale, che per esempio normalmente in Italia i titolari della protezione internazionale sono talmente pochi. C'è anche un limite per l'iscrizione anagrafiche presso i comuni. A questo punto ero molto orgoglioso di questo paese quando i sindaci sono intervenuti e hanno detto non è normale. Perché sono intervenuti? Perché hanno visto che indietro di questo atto ci sarà una grande conseguenza. E io stimo veramente tutti i sindaci che sono intervenuti a proposito di questa cosa. Non vorrei parlare della politica perché non sono un politico. Andiamo avanti. Sono d'accordo, è vero che la militarizzazione dei mari permetta di respingere le imbarcazioni, ma è utopistico, consentitemi, stupido, che una nazione come l'Italia, con più di 7.000 km di coste, possa impedire effettivamente tutti i tentativi di attracco, siano piccoli o grandi. Possiamo vedere con gli esempi recenti, con gli sbarchi in Puglia, in Sicilia, a Lampedusa, ovunque, anche quelli che noi non sappiamo, ma ci stanno. Per concludere, vorrei ringraziarvi per la fiducia datami per parlare della mia storia, e spero che le poche parole che vi ho accennato possano aiutarvi e servire a guardare i migranti, ognuno con la propria soggettività, le proprie preferenze e anche con un background simile. Grazie a tutti. Grazie, grazie a te davvero. Grazie. Grazie per questa testimonianza sentita e molto profonda, e questo ci insegna intanto a guardare, a cambiare la prospettiva. Dunque, come dire, l'importante è fare informazione, lo dicevamo prima, cioè occorre che queste realtà siano conosciute, perché molto spesso vengono sottaciute e nascoste. Grazie. Dunque, Carlo Mere, delegato regionale della Caritas Campania. Ecco, prima si faceva cenno al fatto che dagli SPRAR sono stati istituzionalizzati nel 2000, 2002, giusto? Poi nel 2013 c'è stata l'emergenza del Nord Africa e poi siamo arrivati al decreto 113 che in qualche modo ne sta, lo sta sminuendo, forse scomparirà, chissà, andremo più verso i CAS oppure i centri di prima accoglienza, ma insomma è davvero un dramma. Qui abbiamo anche il sindaco di Napoli, per cui immagino come davvero occorre porre in qualche modo qualche tampone a questa realtà. E Carlo, tu che hai un osservatorio regionale, forse anche come vi ponete, come si pone la Caritas? Intanto grazie a tutti voi di avermi invitato, vorrei condividere questa certezza con voi. Viviamo in un momento di annunci, l'annuncio è il pericolo, la paura, generare soprattutto una tensione che provochi lontananza. Non dobbiamo avere niente a che fare con altri. Il problema dell'immigrazione noi l'abbiamo sempre vissuto, la Campania, la Puglia, la Calabria, e non sono mica 2 anni, neanche 10, forse 20. I migranti sono sempre stati da noi, sono stati sempre presenti, hanno fatto sempre parte della nostra vita quotidiana, e non solo quelli di colore scuro. Pensate che noi senza le badanti non avremo tempo da fare, non possiamo fare niente ormai senza le badanti. E guardate, le badanti dell'est europeo ormai si sono talmente integrate che non fanno più notte e giorno, o fanno la notte o fanno il giorno. Chi saranno i badanti del prossimo futuro? Solo i ragazzi, solo le donne di colore o i ragazzi di colore? Ma questo per dirvi che quello che si sta generando è un clima molto negativo e molto preoccupante. Guardate, i direttori delle Caritas Campanie hanno detto chiaramente ciò che pensano. Sono contro questo decreto, sono contro questo governo. È talmente contro che rispondono a logiche diverse. Radio Vaticana, che mi ha intervistato l'altro ieri, diceva: ma noi vorremmo, perché la Campania non fa più, promuove più realtà di accoglienza? Guardate che noi l'accoglienza la stiamo facendo, stiamo assicurando quel percorso a tanti migranti che fra poco troveremo per strada, li abbiamo già per strada, i comuni li hanno già per strada, cercando di dargli una protezione non ufficiale, perché poi chiaramente siamo consapevoli che rischiamo anche noi, no? Però cerchiamo di dare intanto una risposta evangelica e cerchiamo soprattutto di dare una risposta che vada contro la logica di chi offre a tanti nostri ragazzi una possibilità di reddito in modo non legale. Sto parlando di criminalità. Io poi sono anche il garante provinciale delle persone detenute. In Campania su 7.500 detenuti, 1.100 sono stranieri. Di questi 1.100, 700-800 potrebbero stare fuori, stanno in carcere per reati che noi certamente non ci finiremo mai, ma perché non hanno un posto dove andare. Siamo in sovraffollamento, siamo di nuovo a 60.000 e oltre detenuti in Italia. Ma tutte queste cose le sanno gli addetti ai lavori, però quello che va detto è che i migranti fanno paura. Fanno paura a chi? A chi, se poi alle realtà che ci vengono raccontate dalle zone territoriali sono diverse. Queste le dovremmo raccontare di più. Oggi sono stata a Scampitella, un comune di 1.200 abitanti. Ho detto a chi mi ha invitato: come pensi il tuo paese fra 10 anni? Sì e no, ci saranno 200 persone. Voi pensate che noi abbiamo 118 comuni in provincia? Io dico che fra 10 anni 40-50 comuni finiranno. E allora l'attenzione anche alla politica ad essere attenta a valorizzare soprattutto le economie locali. Perché questi giovani devono andare via? Perché non si può valorizzare un territorio? A chi lasceremo queste nostre terre, queste nostre case? Ormai ci sono più case abbandonate che case vissute. Anche la nostra città, per il centro è quasi disabitato, però si costruisce in periferia, però il centro è disabitato. Allora io vedo due cose. Una, il cardinale Montenegro, prima di lasciare Carità Italiana, ci diceva: oggi stiamo facendo tutto sto casino perché fanno paura, li dobbiamo mandare via, che poi di fatto non li mandano via, perché tutti questi atti che le questure stanno facendo, penso che i migranti li stanno collezionando, perché una questura gliene fa uno, un'altra questura gliene fa un secondo, la terza, la quarta, ma a casa, ve lo dico io, non ci torna nessuno, non ci torna nessuno. E quindi Montenegro ci diceva: oggi si fa tutto questo marasma, fra 10 anni questo governo farà le navi per andarli a prendere. Perché la nostra economia, senza di loro, non vale niente. Pagati, sottopagati, sfruttati, trattati come dei servi, però fanno un reddito spaventoso per il nostro paese. La nostra economia senza di loro, oltretutto ci pagano le pensioni a noi, che loro pagano i contributi, ma la pensione non la vedranno. E l'altra cosa che vedo, e che è successa in America, in quel paese che è democratico, che adesso vive anche lei questo momento del muro, bisogna fare un muro, facciamo questo muro, quanto più lungo deve essere, io sogno un presidente dell'Italia di colore, o non italiano almeno, perché se no non usciamo da questo stato in cui ci sentiamo padroni di niente, ma vogliamo essere comandanti. Guardate, è un tema che ci deve essere a cuore, non lo trascuriamo, non ci facciamo illudere da parole che non hanno senso. Dobbiamo esserci, Don Milani ci raccomandava di esserci nelle cose, di mettere ognuno la sua parte, di ognuno può fare qualcosa perché questa società cambi e perché la giustizia, la verità vengano a galla. Grazie Carlo. E dunque, il presidente del GAL Partenio, Luca Beatrice, non ha, almeno per la maggior parte dei presenti, bisogno di presentazioni. E tuttavia una cosa però la voglio dire, se mi è permesso. Sin dall'inizio, da quando abbiamo progettato la strategia di sviluppo locale del GAL Partenio, ha voluto che ci fosse, erano periodi anche poco sospetti, come asse portante quello dell'agricoltura sociale e dell'inclusione sociale, che oggi cammina di pari passo appunto con le politiche degli SPRAR. Grazie Maurizio per aver precisato questa cosa. Io innanzitutto dico buonasera a tutti e grazie per la partecipazione. Dico anche che stasera si respira un buon clima, non soltanto da un punto di vista meteorologico, ma proprio dal punto di vista dell'integrazione, e questa è una bella cosa. È una cosa che in altri paesi europei probabilmente è un'abitudine, in Italia ancora non è proprio così. Però noi ci godiamo questo momento e quindi facciamo questa discussione con grande tranquillità, serenità, ma anche sapendo quello che vogliamo dire. Il dibattito di stasera è un dibattito che ha come oggetto la vertenza migranti, ormai la possiamo definire così, si tratta di una vera e propria vertenza, dal momento che è una questione che riguarda tutti, riguarda il governo, il Parlamento, con il decreto sicurezza di cui Rendi ci parlava prima e che ha causato un po' di problemi oggi, probabilmente confusione domani e dopodomani non so quali altri problemi. Riguarda anche i cittadini però, perché la questione non può essere semplicemente relegata nell'ambito di chi poi può decidere determinate cose. Decidere possiamo decidere tutti nelle sedi, nei momenti in cui questo si può fare. Oggi però possiamo parlare e credo che questa sia una grande cosa, una grande opportunità che abbiamo. Per questi motivi quindi il dibattito di stasera, il dibattito a confronto su una questione che è in campo, che è vera, che è concreta e che ha tante implicazioni. Le questioni della sicurezza, le questioni dell'umanità, di come ci poniamo rispetto al problema dei migranti. La questione dell'organizzazione e della gestione dei flussi e anche i possibili benefici diretti e indiretti che la gestione di questo problema, che può essere invece una risorsa, può in qualche modo comportare. Io non parto da Gino Strada e da Roberto Saviano, che potrebbero essere considerati come la punta estrema dell'antipolitica rispetto al governo attuale. Parto da Papa Francesco. Papa Francesco pochi giorni fa ha detto: chi è costretto a lasciare il suo paese va accolto con umanità, ma i governi regolino i flussi. E mi sembra una buona traccia, una traccia interessante da seguire, oltre che molto autorevole, ma anche molto interessante, perché si tratta di, analizzando le parole che ha utilizzato Papa Francesco, si tratta di capire innanzitutto che chi lascia il suo paese molto spesso è costretto a farlo, e se è costretto a farlo significa che si tratta di condizioni di vita di questi paesi in cui ci sono o guerre o povertà estrema. Quindi chi è costretto a lasciare il suo paese deve avere la possibilità di vedere riconosciuta la propria dignità in paesi più fortunati come il nostro. Quindi chi è costretto a lasciarlo va accolto con umanità. Ovviamente l'umanità è qualcosa che noi dobbiamo a volte ricordarci, altrimenti nella vita di tutti i giorni siamo portati a passarci un po' sopra. Eppure il problema successivo è quello della regolamentazione dei flussi. I governi hanno il compito di regolamentare i flussi, di regolamentare, quindi di organizzarli, di assicurare la sicurezza. E quindi tutto questo presuppone che ci sia un'analisi seria della questione, un'analisi seria del problema. Bene, quindi facciamo stasera un'analisi seria. Secondo la Commissione parlamentare sulla xenofobia e il razzismo, leggo testualmente, l'Italia è il paese che in tutto il mondo ha il tasso più alto di disinformazione sull'immigrazione. Sono i lavori di una commissione parlamentare. Tant'è vero che in Europa, e leggo ancora testualmente, l'Italia non è né il paese con il più alto numero di immigrati, né quello che ospita più rifugiati e richiedenti asilo, perché in tal senso viene dopo la Germania, dopo il Regno Unito, dopo l'Austria, dopo il Belgio, per citarne alcuni. E dato che vogliamo essere seri, vogliamo parlare di cose concrete, riscontrabili, secondo il dossier IDOS, che è un centro studi nato da un gruppo di ricercatori cresciuti alla scuola della Caritas, in pratica in Italia non c'è un'invasione di migranti, anzi i numeri di immigrati presenti nel nostro paese sono stabili dal 2013, mentre si è dovuto registrare un aumento del tasso di mortalità in mare, anche a causa della politica che ha in qualche modo, in più di qualche modo, penalizzato il lavoro delle organizzazioni non governative. Su questo poi il sindaco De Magistris ci potrà dire qualcosa, perché il problema lui l'ha proprio sfiorato, è stato molto, molto diplomatico, e ovviamente sono ironico ovviamente, perché è stato molto, l'ha proprio sfiorato, ho visto che proprio ne ha parlato di sfuggita di questo problema minore, che è quello della mortalità in mare, del problema delle ONG, e l'ha fatto con coraggio, ma insomma non devo parlare io di quello che ha fatto il sindaco, lo farà lui. Devo dirti, Luigi, che proprio per la presa di posizione coraggiosa e forte che tu hai mostrato, io pensai che sarebbe stato bello averti qui e sentirti e parlare con te e condividere con te il pensiero che molti di noi condivide con te. Quindi non si tratta di un problema, quello dei migranti, risolvibile chiudendo le frontiere o i porti, e qui torniamo a De Magistris. I flussi continuano comunque, i flussi continuano, e però continuano in una maniera incontrollata e mettendo veramente a grande rischio anche appunto i migranti che sono costretti a fare questi viaggi interminabili, come Randy ci raccontava prima, viaggi della speranza ma anche viaggi della morte, perché purtroppo quello che succede in Libia in qualche modo lo sappiamo, quello che patiscono queste persone in qualche modo lo sappiamo, però noi siamo lontani e quindi facciamo finta che il problema non ci riguardi, perché sembra che il problema dei migranti in Italia rappresenti il problema principale che debba essere affrontato, ma non con delle soluzioni di integrazione e utili, ma chiudendo i porti. E si parla di questo e non si parla di altro. Don Ciotti, qualche giorno fa, il fondatore di Libera, ha detto: il problema non sono i migranti, ma la mafia. Io mi ricordo un film di Roberto Benigni in cui lui parlava di Palermo, e a un certo punto c'è un personaggio di questo film che dice: a Palermo c'è un grosso problema, e tutti quanti si aspettavano che dicesse la mafia, e lui dice: c'è un grosso problema a Palermo e tutti lo sappiamo, ed è il traffico. In Italia mi sembra che stia succedendo la stessa cosa. In Italia c'è un grosso problema che non è la mafia, che non è la disoccupazione, che non è la precarietà del lavoro dei giovani e altro. No, il problema sono i migranti, ma non nel senso che bisogna risolvere il problema e aiutarli. No, bisogna chiudere i porti, perché i migranti rappresentano il problema principale. Siamo quasi a livello del film di Benigni. Ma insomma, io credo che invece la questione debba essere affrontata in maniera seria. Credo che ognuno debba fare la sua parte. E quindi anche il GAL Partenio. Noi rappresentiamo 16 comuni, noi dobbiamo portare avanti le politiche dello sviluppo per le aree più arretrate, più in difficoltà, ma non solo, lo ricordava Maurizio, noi siamo attenti alle questioni che riguardano l'inclusione, infatti abbiamo previsto, forse gli unici in Campania, ma non ci interessa avere primati, siamo tra i pochi ad aver previsto dei programmi di inclusione sociale e di agricoltura sociale, ma anche sollevare il problema dei migranti, come stiamo facendo stasera, in maniera seria e responsabile, documentata, è un modo di contribuire in qualche modo al dibattito e probabilmente anche a una presa di coscienza più importante. Non dimentichiamo che la nostra storia della provincia d'Avellino, della regione Campania, del sud d'Italia, è una storia di emigranti, è una storia di valigie di cartone attaccate con fili di spago, con i bastimenti che partivano. E la nostra provincia è la provincia di Guido D'Orso, di un grande meridionalista che ha affrontato le questioni. E non possiamo quindi sentirci lontani dai problemi che riguardano la xenofobia, il razzismo. La xenofobia va combattuta in ogni tempo e in ogni luogo, non secondo convenienze di parte o di momento. Io ricordo una frase famosa di un teologo tedesco antinazista, Martin Niemöller, è famosissima, attribuita a Brecht, ma in realtà non è la sua, che dice: prima vennero a prendere gli zingari e io fui contento perché gli zingari rubavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e mi stette bene la cosa perché gli ebrei mi erano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e mi andava bene perché mi davano fastidio. Poi vennero a prendere i comunisti e mi stette bene la cosa perché non ero comunista. Poi vennero a prendere me e non c'era più nessuno a protestare. Io penso che noi dovremmo ragionare da paese civile e non possiamo ricordarci. Adesso ci sentiamo in qualche modo, un paio di giorni fa, anche in provincia di Avellino, ci siamo sentiti, io no, ma insomma, ci siamo sentiti i settentrionali del sud d'Europa, il settentrione dell'Africa, in qualche modo, quindi forse ci siamo sentiti meglio, perché quelli che andavano discriminati non eravamo più noi, ma erano gli altri. Non funziona così, non è il comportamento di un paese civile. Il comportamento di un paese civile è quello che si fa carico dei problemi. Io sul lungomare di Napoli, che riconosco a De Magistris aver trasformato in una cosa bellissima, tra l'altro adesso plastic free, da pochi giorni libero dalla plastica, sul lungomare di Napoli non mi sembra che il sindaco abbia posto un cartello in cui c'è scritto: il lungomare è bello, però prima per i napoletani. Non mi sembra che è andata così. Il lungomare è per tutti. Il nostro paese deve essere aperto a tutti. Napoli è l'anello di congiunzione, lo dicevo tempo fa, tra i paesi poveri dell'Africa e i paesi industrializzati, e l'Occidente industrializzato. In qualche modo rappresenta un modello. Così come, lo diceva Adele Galdo prima, lo SPRAR poteva essere e può essere ancora un modello di gestione della questione dei migranti. Lo SPRAR è un sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati che ha lo scopo di integrare, formando i migranti, avviandoli al lavoro e facendoli sentire parte di una società. I CAS, i centri di accoglienza straordinaria, avevano la funzione, hanno ancora la funzione, di dare un primo aiuto, ovviamente con una possibilità minore di agire rispetto all'integrazione concreta. È ovvio che se il decreto sicurezza, il decreto Salvini, abolisce la figura dello psicologo nei CAS, abolisce l'insegnante, il professore di italiano, significa che tu non vuoi integrare le persone. Ora io mi chiedo, in termini di sicurezza, quindi non soltanto in termini etici, ma in termini di sicurezza e di utilità per il nostro paese, è meglio integrare, avendo la possibilità di ricavare un beneficio dal fatto che i migranti molto spesso fanno dei lavori che non si fanno più, che molti italiani non vogliono fare più, anche per quanto riguarda l'agricoltura, ecco perché poi il GAL Partenio, aree rurali e quindi impegno in agricoltura dei migranti, è meglio integrarli e avere questo beneficio anche per noi italiani, oltre al beneficio per chi viene accolto, in termini di sicurezza, o è meglio invece emarginare quello che sta avvenendo e pian piano, o forse ancora più velocemente nei prossimi mesi avverrà con gli effetti del decreto di sicurezza di Salvini, cioè emarginare, chiusura dei porti, chiusura di queste persone, dei migranti, in centri dove non ricevono formazione, non hanno la possibilità di integrarsi nel mondo del lavoro, in situazioni in cui si rischia dal punto di vista igienico, della salute, di creare delle polveriere, facendo aumentare anche il fastidio che i cittadini possono provare rispetto a delle aree degradate e quindi facendo aumentare anche il rischio di razzismo e di xenofobia o di disordini. Io immagino un gruppo di italiani, 3.000 italiani, li mettiamo in un centro a Napoli, italiani, bianchi, non neri, bianchi, li mettiamo in un centro lì e gli diciamo: voi dovete semplicemente mangiare quando capita e bere e basta. Non avete nessuna speranza. Beh, io penso che questo gruppo di italiani prima o poi si ribellerà. Immagino che lo stesso diritto hanno delle persone che vengono segregate in questo modo e quindi avrebbero sicuramente un sentimento che può alimentare invece non soltanto la rabbia, ma anche poi un sentimento di ritorno, di fastidio da parte dei cittadini italiani. Non è probabilmente in questo modo che si aumenta la sicurezza. La sicurezza si aumenta integrando con le misure, con tutti gli strumenti necessari. Non ci dimentichiamo che quando si dice aiutiamoli a casa loro e via dicendo, noi stiamo parlando di cose che presuppongono la conoscenza del fatto che in Africa, in questi paesi, tutt'oggi si verificano situazioni di sfruttamento da parte dell'Occidente di delle risorse che sono invece, che dovevano invece essere utilizzate da chi lì ci vive e ci è nato. Ma insomma, non voglio farla troppo lunga, già l'ho fatta molto lunga. Noi abbiamo degli esempi virtuosi in provincia d'Avellino. I GAL, gli SPRAR esistenti nell'area del GAL Partenio sono diversi: Rocca Bascerana, Torrioni, Petruro, Santa Paolina, Sant'Angela Scala, adesso anche Pannarano, i Cassa Ospedaletto a Mercogliano. Insomma, io ho visto in queste realtà delle cose molto belle. Ragazzi che hanno ripreso dei mestieri che non si facevano, persone che veramente hanno la voglia di integrarsi. Io vedo che quando vengono trattati bene ricambiano con lo stesso affetto. Io credo che la via sia questa, e quello che noi abbiamo voluto fare è stato proprio portare gli esempi di quello che nella nostra area del Gran Partenio stanno facendo le nostre comunità. Ci sono diversi sindaci presenti in sala, che io ringrazio per il grande sforzo che hanno profuso per realizzare quello che si sta facendo in questo senso. Io la chiudo qui dicendo che probabilmente c'è ancora tempo per cambiare, però c'è bisogno dell'impegno di tutti, a partire anche dai cittadini. E la domanda che io mi faccio è possibile coniugare ancora umanità e sicurezza? Io mi rispondo ottimisticamente che forse sì, si può fare, però probabilmente credo che forse anche ognuno di noi può e deve fare qualcosa in questo senso. Grazie. Yeah. pensa a mia patraità. Ti vengo a pensa a te, perché sono nata in casa e con sonnina nera. Ma non te posso lasciare. Mi piace chi la faccio senza soffermare, che tu stai posando la roba che sa pagare. Hai tornato c'è più, ma non ti fa bruia, che te la faccio senza soffermare. A me mi piace il blues e tutte le giorni c'è a cantare, perché mi brucio fronte in una maniera c'è a fugare. Sono volgare so che nella vita suonerò. Sono blues a stregne, niente sono mo'. A voce resto male, e a paziente su puta. A gente che cammina, mi sta via per straità. Ti vengo a pensare a te, perché sono nato a casa in questo nido. Presidente, io nel salutare tutti gli intervenuti e do le conclusioni ovviamente al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Buonasera, innanzitutto grazie dell'invito a Luca, al Gal Partenio. Ho ascoltato, devo dire, con grande attenzione la relatrice e i relatori, è stata un'iniziativa molto interessante. Quindi cerco di portare il mio contributo, anche perché mi fa piacere essere qua. Io faccio il sindaco a tempo pieno, non sempre mi riesco a spostare, fare il sindaco di Napoli è complesso, c'è anche Salvini ogni tanto mi ricorda che io dovrei pensare alla città e non ad altro. Pensare alla città significa pensare anche a tutto questo. Fare il sindaco di Napoli non c'è un argomento di cui non puoi pensare. Sarebbero tanti gli argomenti da cui cominciare, il primo è l'informazione. Cioè, a me interessa passare dalla propaganda di questo governo ai fatti. Allora, la prima riflessione la vorrei fare su una testimonianza non da sindaco ma da magistrato. Che qualcuno pensa che il tema degli immigrati sia un tema degli ultimi tempi. Io quando facevo il magistrato in Calabria, in particolare dagli anni dal 2003 al 2006, mi sono occupato di trafficanti di esseri umani. Quindi esattamente quello che si raccontava prima l'ho ricostruito con attività investigative. I viaggi dal centro Africa, passare per i vari paesi, arrivare in Libia, avere a che fare con i governi dell'epoca, c'era Gheddafi, c'erano i servizi libici, poi si arrivava a Lampedusa e poi me ne occupavo in Calabria perché a Crotone c'era il più grande centro di permanenza temporanea. E la cosa più aberrante era verificare che le persone, una volta arrivate in Italia, venivano sequestrate. E fin quando non pagavano l'ultima rata di riscatto attraverso il trasferimento del denaro con la Western Union, i loro familiari, soprattutto donne, soprattutto mamme, figlie, sorelle, venivano sequestrate, stuprate, violentate, qualche volta uccise. Qui non stiamo parlando di un fatto di questi tempi, stiamo parlando di un fatto molto grave, però di alcuni fatti non si parla più. Cioè nessuno parla del perché le persone vanno via. E mi fa piacere allora ricordare che nel 1928, per chi va nel Museo delle Migrazioni di New York, troverà un editto del governo di Washington, corredato da tante fotografie, in cui i meridionali venivano definiti negroidi. E si vedono dei meridionali, cioè i nostri genitori, i nostri nonni, che si aggrappavano alle barche esattamente con le stesse immagini di adesso. E se non ci fosse stata una parte di New York, di una parte di Washington, per fortuna accogliente, oggi noi non avremmo che il sindaco di New York e di Sant'Agata dei Goti, non avremmo che il governatore della penisola sorrentina, non avremo che il comandante dei Vigili del Fuoco e di Procida. Quindi esattamente la storia ci insegna che noi non dobbiamo fare quello che all'epoca altri volevano fare nei nostri confronti. Allora questo è il tema, secondo me, che la storia deve esattamente insegnare, e che con il discorso che ho visto appunto in quegli anni è esattamente le complicità che ci sono state da parte di tante persone per realizzare quelle pagine orrende che è il sequestro di persona a scopo di estorsione, i trafficanti di esseri umani e le gravi complicità. E quindi nessuno parla che le persone oggi scappano per i cambiamenti climatici, scappiano per le guerre, perché non hanno acqua da bere. Ci siamo già dimenticati che la propaganda, quando c'erano anche altri governi, ci dicevano che noi dovevamo bombardare la Libia perché era giusto esportare la democrazia in Libia, dovevamo eliminare Gheddafi, che nessuno difende, però oggi vorrei capire chi è che si ascrive alla lista di ritenere che in Libia ci sia la democrazia. La Libia è fuori controllo. Ed erano gli stessi governi che poi dicevano noi dobbiamo accogliere, però devono dimostrare di avere un lavoro e quindi poter avere il permesso di soggiorno. Se oggi c'è Salvini, lo dobbiamo dire. Prima c'erano i decreti Menniti, prima ancora c'era la Turco Napolitano e poi c'era la Bossi Fini. Salvini, diciamo, è l'ultimo prodotto, è l'effetto collaterale di quelle politiche liberiste. Allora a me, che amo molto risolvere i problemi alla radice, credo che noi dobbiamo capire perché c'è tutto questo, perché non si parla delle guerre, perché non si parla di tutto questo, perché non si parla delle cooperazioni sbagliate che i governi occidentali hanno pensato di esportare la democrazia, non di sostenere i processi di autogoverno e di autodeterminazione dei popoli, che non è insegnare la democrazia. Noi a Napoli ci arrabbiamo quando qualcuno vuole mettere le mani sulla città, è un po' la stessa cosa. Io penso che la democrazia significa autogoverno, significa capacità di emanciparsi da soli. Se qualcuno è in difficoltà, magari vorresti il sostegno da parte di altri che possono avere le risorse, ma non esportare. Le democrazie non si esportano, è come l'imperialismo. Noi ancora discutiamo di tutto questo. Allora sono voluto partire da qua perché è fondamentale. Così come voglio passare dall'ONG. Secondo voi perché sono sotto attacco le ONG? Perché sono colluse con i trafficanti di esseri umani? Perché Medici Senza Frontiera, Open Arms, Mediterranee, Emergency sono congreghe di truffatori? È chiaro che in quel mondo ci sta anche magari, come in tutti i mondi, questa storia di dire quello ha rubato, ditemi un posto dove non si ruba. Perché attaccano l'ONG? Perché sono testimoni. Perché altrimenti quello che dice Salvini insieme a Di Maio, insieme a Conte, perché certe volte si cita solo Salvini, ma non ci dimentichiamo che Salvini aveva il 17%. Era il braccio destro di Berlusconi, questi l'hanno ripulito, l'hanno fatto arrivare al 30%, è diventato il capo politico di fatto di questo governo. Quindi non bisogna parlare di Salvini, bisogna parlare del governo che è fatto da Conte, da Di Maio e da Salvini, altrimenti si fa un errore. Colpiscono le ONG perché le ONG smentiscono il dato di Salvini e del governo che dicono devono andare nei porti sicuri. Allora qualcuno mi deve spiegare chi ha il coraggio di ritenere che i porti libici siano porti sicuri e non ci siano invece testimonianze che io ho ascoltato con le mie orecchie e registrazioni audio che ho ascoltato, di cui parliamo di campi di concentramento e lager. Se non ci fossero testimoni di giustizia, perché noi non avremo fra 10 anni questo governo, ci auguriamo ne avremo altri. Quando finalmente si avrà il coraggio, davanti a un tribunale internazionale, di processare, e parlo da magistrato, che non lo sono più, ma dentro, anche io mi sono laureato alla Federico II nel lontano 1990, quindi un po' di, come dire, cognizioni giuridiche ce l'ho, quando si processeranno finalmente molti rappresentanti dei governi, non solo italiani ma occidentali, per crimini contro l'umanità, queste persone saranno testimoni. E io mi ascriverò sul fatto, con grande orgoglio, che la città di Napoli, e mi fa piacere così come altri comuni e altre realtà, non saranno complici. Noi non saremo chiamati tra quelli che non si sono schierati. E attenzione, io so perfettamente che per Luigi De Magistris oggi fare un comizio sull'immigrazione e sull'accoglienza probabilmente mi può far anche perdere molti voti, ma a me non me ne frega proprio, perché quando io mi batto e ci battiamo per le libertà civili degli altri, io sto difendendo anche la mia libertà e soprattutto sto provando ad attuare la Costituzione repubblicana. Questo è il tema. A me non interessa nulla, non è la politica dei like quella che ci appartiene, è una politica, perché io ho giurato 3 volte alla Costituzione, 1 volta da magistrato e 2 volte da sindaco. La Costituzione non va difesa, perché se facciamo solo i difensori non vinceremo mai. La Costituzione va applicata e ognuno di noi la deve applicare. Ce lo ricordò Piero Calamandrei nel secolo scorso, quando disse: questa è la Costituzione, quanto tempo vivrà? E chi lo sa? E chi lo sa? Per ora sono passati tanti decenni, non l'hanno ancora applicato in pieno. Noi la dobbiamo difendere, la dobbiamo attuare, la dobbiamo far vivere. E farla vivere su questi temi significa entrare nel midollo della Costituzione. Quando all'articolo 3, secondo comma, troviamo scritto: il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana, l'uguaglianza e la partecipazione dei lavoratori alla vita sociale, vi siete mai interrogati su questi due concetti? Repubblica e rimuovere. I costituenti hanno vissuto il fascismo. Il fascismo non era qualcosa di extra istituzionale come il nazismo. Fascismo e nazismo avevano la forza nella legalità formale. Cioè, le più grandi aberrazioni della storia avvengono attraverso la legge. La promulgazione delle leggi razziali, le deportazioni, avevano il timbro delle cancellerie di Stato. Allora, chi ha visto il fascismo e il nazismo, chi ha visto torture e omicidi, ha scritto a noi che saremmo arrivati dopo che se un'altra volta accadeva che qualcuno con la legalità formale cominciava a fare abomini, non si aveva il diritto di ribellarsi, ma il dovere e compito della Repubblica rimuovere. Repubblica non è il Parlamento, altrimenti siamo fritti. Lo dissero già i giuristi tedeschi alla fine del Settecento. L'uso illegittimo del diritto. Compito della Repubblica ha chiamato in causa noi. E se i principi costituzionali sono in pericolo, hanno usato un verbo che non è un verbo giuridico. Non hanno detto compito della Repubblica legiferare, compito della Repubblica provvedere, compito della Repubblica deliberare. Compito della Repubblica rimuovere. Quindi noi, se vediamo che ci sono degli ostacoli ai principi di libertà, di uguaglianza e di fratellanza, signore e signori, noi non possiamo stare fermi. Cioè, noi ci dobbiamo muovere. Perché se noi sottovalutiamo quello che sta accadendo, la ruspa che sta utilizzando Salvini non è tanto la ruspa che si vede, è la ruspa che lui ha messo in campo qua dentro. Cioè, lui ha smosso dei sentimenti che fanno parte della vita umana. Cioè, ognuno di noi lotta quotidianamente tra il bene e il male. Amare è così semplice, ma anche così difficile. Perché amare significa perdonare, amare significa compassione, amare significa pensare più agli altri e meno a te stesso. Cioè, è una scelta che non è proprio sempre semplice, perché ha subito delle ingiustizie, ha subito delle ferite. Quest'uomo è andato a scavare e ha fatto venire fuori questi sentimenti negativi. E con la comunità del rancore di Salvini, ma che sicurezza? E veniamo alla legge sicurezza. Questa è una legge che produce effetti criminogeni come raramente accaduto nella storia parlamentare degli ultimi anni. L'avete detto voi prima. E qua mi interrogo da sindaco. Questi ci hanno voluto dire: a noi sindaci, ci sono delle persone nella vostra città che per noi giuridicamente non esistono, però noi li vediamo. Allora, se tu a una persona gli togli i diritti, questa persona esiste o non esiste? Noi la vediamo ed esiste, e se gli togli i diritti va nella clandestinità, e se va nella clandestinità qualcuno non la vedrà, perché le vorrebbero anche mettere solo nelle periferie. L'avete vista l'ultima direttiva di Salvini? Dice ai prefetti della Repubblica Italiana nelle cosiddette piazze di spaccio della città voi dovete adottare delle ordinanze in cui lo spacciatore, tu ti aspetteresti che il ministro dell'interno manda più polizie per arrestare lo spacciatore. Lui dice no, nei centri storici non ci devono stare, possono stare in periferia. È un po' la stessa filosofia. Clandestino, quindi clandestino significa rischio che diventi vittima di prostituzione, vittima dei trafficanti. Qualcuno può diventare anche criminale, qualcuno si arrabatta, qualcuno cerca un mestiere. Gli errori gravi che hanno fatto nel corso degli anni con cui si reiterano all'ennesima potenza. Allora verrebbe la domanda, siccome l'ha capito pure Luigi De Magistris, che non è, come tutti sanno, particolarmente intelligente, che questa legge procura un effetto criminogeno e quindi aumenta clandestinità, aumenta insicurezza e abbassa la coesione, perché lo hanno fatto? Cioè, la domanda che viene è questa. Lo hanno fatto perché stanno preparando lo Stato autoritario. È molto semplice. Ne vedremo delle belle. Manganelli, repressione del dissenso, tutto quello stanno preparando, lo stanno preparando. Ecco perché noi dobbiamo prevenire tutto questo. Quando tu metti 3.000 immigrati a Napoli in due strade e in quattro alberghi, succede quello che si è detto prima. Tu non puoi dire a delle persone devi stare in albergo tutta la giornata, al massimo puoi bere un po' d'acqua, una zuppa, te la mangi, fai pipì, vai nel bagno ed è finito. Non è così. Noi sindaci l'abbiamo proposto in questi anni. Cioè quello di fare un'integrazione diffusa su tutti i territori, in modo che nessuno può fare la propaganda sull'invasione che non esiste. Se poi lo fa tutta l'Europa, meglio ancora. E allora il modello, loro sanno perfettamente che è un modello di integrazione. È un modello che crea integrazione, crea coesione. Ma poi scusatemi, vi rendete? Perché si parla dell'immigrazione solo come problema? Ma noi abbiamo decine e decine di migliaia di ettari nel paese completamente incolto. Mimmo Lucano, il mio amico Mimmo Lucano, che io conosco da tanti anni. Se tu colpisci Mimmo Lucano, vince l'andrangheta. Se tu colpisci Mimmo Lucano, vince il problema di Riace. Guardate, io ho conosciuto Riace prima con Lucano e adesso purtroppo dopo Lucano. Il problema di Riace non è l'immigrazione, è l'emigrazione. Cioè a Riace c'era qualche vecchietta, qualcuno che veniva d'estate, che ritornava in quella zona così straordinaria della Calabria che ho amato. Lui l'ha reso un posto felice, in cui stavano vicino afghani, siriani, palestini, una specie di miracolo di pace, un arcobaleno di colori, e l'hanno colpito. Mandante, esecutore. Mo mi spiace che vedo che i mandanti oggi se la pigliano con l'esecutore. Io stavo in piazza quando c'erano i mandanti e quando ci sono gli esecutori. Volete i nomi e cognomi? I mandanti è stato il governo di prima e gli esecutori e il governo adesso. Scusatemi la mia franchezza, ma io non posso ritenere, io non c'ho nulla in comune, chiaramente non sto mica difendendo Salvini, però l'attività di criminalizzazione di Lucano è cominciata dal governo precedente. Allora attenzione, le opportunità, il prodotto interno lordo, l'economia del nostro paese. Allora io vi lancio due sfide. Una vi invito, il 15 giugno. Noi il 15 giugno facciamo una cosa che nella storia di Napoli non si è mai vista. Forse dobbiamo andare alle Repubbliche Marinare. Noi il 15 giugno mettiamo non meno di 400 barche sul mare. Noi il 14 giugno avremo la flotta napoletana che batterà bandiera napoletana. Sarà una flotta a disposizione, perché quando il governo dice che il porto di Napoli è chiuso, dice una balla. Il porto di Napoli è aperto. Se dovesse venire un comandante di una nave dirigersi verso Napoli, il porto è aperto. Qualora dovessero fare un'ordinanza, la voglio ancora vedere, fino adesso non l'hanno fatta, che bloccano a 12 miglia con la Marina Militare e la Guardia Costiera, noi andremo con la flotta ai 12 miglia. Flotta, la prima barca chiaramente ci sto io, con la fascia tricolore, spero ci saranno parroci, spero ci saranno giovani, spero ci sarà gente comune che andrà ad accogliere. E poi l'altra sfida di integrazione, la lanceremo a giugno, Piazza Garibaldi, dove abbiamo avuto il tema del vasto. Noi vogliamo dimostrare che dal tema del conflitto sociale che qualcuno voleva cavalcare, noi passeremo a una Piazza Garibaldi con un progetto di integrazione straordinaria con cui stiamo lavorando con le comunità migranti. Noi finiremo dei lavori, perché è stato in piazza, l'avrà visto a Napoli negli ultimi tempi, a giugno saranno finiti i lavori, stiamo costruendo il condominio della piazza. Che sia Champions League di Napoli, non c'è il pareggio, o perdi o vinci, cioè dobbiamo mettere insieme grandi stazioni, ferrovie, forze di polizia, prefettura, comune, municipalità, albergatori, commercianti, residenti, migranti, senza fissa dimora, bellissimo, abbiamo costruito un'agorà, in pieno della piazza c'è un'agorà di 2000 posti, con lo schermo, l'estate a Napoli quest'anno avrà il suo epicentro culturale a Piazza Garibaldi, cioè se noi riusciremo a dimostrare che quella piazza la si difende tutti, perché la sicurezza è veramente tale quando tutti partecipano alla sicurezza e i migranti nella nostra città che hanno insieme a noi condiviso questo percorso ci aiutano. Ecco perché anche come Comune di Napoli, tra mille difficoltà burocratiche, stiamo interpretando quella legge dell'insicurezza Salvini in maniera tale da consentire l'iscrizione negli elenchi del registro anagrafico delle persone richiedenti asilo, permesso umanitario, che altrimenti andrebbero spinti con questo effetto criminogeno verso la clandestinità. È una grande sfida, ci prendiamo denunce su denunce in questi anni per aver trascritto, aver dato la carta d'identità a Ruben, abbiamo preso una denuncia, cioè vedete che cos'è questo paese del conflitto tra legalità e giustizia, è veramente amara questa cosa, cioè la giustizia e l'etica che devono vincere la sfida sulla legalità, e se tu aiuti delle persone che stanno morendo in mare diventi favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Noi ci hanno minacciato, hanno detto se voi mettete la flotta in mare, ci hanno detto noi vi faremo il processo per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, hanno detto non c'è problema, teniamo l'aula bunker, saremo tantissime persone, valla a fare un processo dei magistris più 10.000. Sarà il primo maxi processo della storia contro la flotta napoletana. Fate questo processo, lo farete, ne ho fatti tanti. Guardate, io mi sono difeso in 120 procedimenti fino ad ora, in 27 anni di istituzione mi sono difeso in 120 procedimenti civili, amministrativi, disciplinari e penali, perché sono una persona per bene, ma assicuro tanti difetti, ma questo fatto che uno non ha un prezzo, loro cercano di accercarti in tutti i modi, ma non ci avranno mai. Lo si diceva prima, mi avvio a concludere, però l'argomento mi appassiona, oltre che cerco di portare degli elementi che c'è una contronarrazione che si può fare. Si vedono delle immagini veramente agghiaccianti, le immagini di Roma di questi giorni, prima dei calci al pane e poi gli insulti a quelle famiglie rom, è una cosa che non facciamo passare, che tutto questo è normale. Guardate, le mura noi le dobbiamo abbattere o non le dobbiamo far costruire, ma per abbattere le mura e non farle costruire dobbiamo innanzitutto abbattere le mura che ci vogliono far costruire nel cuore, nella testa e nell'anima. Io voglio ricordare le parole di Malcolm X e di Martin Luther King, questi a furia di bombardare, e parliamo di un'epoca dove i mezzi di comunicazione non erano potenti come oggi, a furia di farti credere che tu sei infelice, non perché un sistema che ha prodotto infelicità, ma perché prima c'era il meridionale, che già qua se lo sono dimenticati alcuni, come Salvini e altri ci trattavano come meridionale, oggi è il nero, domani sarà quello con gli occhi a mandorla, dopodomani sarà l'Islam, è così, cioè loro ci vogliono far credere che non è che siamo infelici perché c'è la mafia nella politica, la mafia nelle istituzioni, le corruzioni. Ogni giorno ci bombardano anche su Napoli, l'emergenza Napoli. Cioè non nessuno ragiona sul fatto che oggi il tema delle ingiustizie è dato da un sistema economico iperliberista, dalla penetrazione delle mafie nella politica, nelle istituzioni, dalla corruzione, dalle disuguaglianze. E questo è il tema su cui si dovrebbe lottare, non la lotta tra poveri, non la lotta tra poveri. E allora lo dico per andare a chiudere da napoletano. Come dire, la nostra ricchezza di popolo è data dall'incontro di culture, dall'incontro di religioni, dall'incontro di sensibilità diverse. Ecco perché siamo profondamente anarchici, siamo anche caotici, siamo anche contraddittori. Certo, siamo talmente numeticciato è una mescolanza che ogni tanto c'è pure un conflitto magari dentro di noi e non lo sappiamo, di colori, di sensibilità. Però com'è bello tutto questo, ma com'è noioso il modello a cui loro aspirano, il modello del pensiero unico, del colore unico, del non uscire per strada ma chiuderti in casa, il rancore, i sentimenti brutti, anche quando parlano, sono così aggressivi, così cattivi. Ma che comunità vogliamo creare? Io penso che noi dobbiamo partire dalle cose semplici. E noi a Napoli in questi anni senza soldi, avendo contro negli anni i governi nazionali, regionali, non ve lo sto manco a dire, eppure una città piena di energia, è una città, consentitemelo di dire, piena di energie culturali ed umane, perché abbiamo puntato sulle cose, e chiudo, sul sistema capitalistico non hanno valore, non hanno valore. Noi non abbiamo partiti, non abbiamo giornali, non abbiamo mezzi di comunicazione, non abbiamo collusioni con le mafie, non abbiamo appartenenze se non alla nostra terra. E come abbiamo fatto in questi anni? Autonomia, coraggio, libertà, onestà, amore, coraggio, passione, non avere un prezzo. Sono tutti valori che se tu vai al mercato, De Magistris si presenta con questi valori, mi cacciano se vado a Francoforte, a Milano, al mercato della borsa. Dici, ma tu come vuoi parlare di Napoli se non c'hai soldi, non c'hai la finanza, non c'hai le SPA, non c'hai il bancomat, non c'hai le proprietà private, non c'hai le ricchezze. Eppure vedete dove è arrivata Napoli in termini di umanità, partecipazione, energia. Quindi c'è l'alternativa. Quando qualcuno ti vuole raccontare che non c'è alternativa a quel modello iperliberista, ci sta, perché guardate, il modello iperliberista del capitalismo senile sta andando in crisi, e quando va in crisi risponde con le guerre, perché le guerre muovono economia, le guerre svuotano arsenali e riempiono arsenali. Noi dobbiamo costruire un modello alternativo politico, culturale, sociale, etico ed economico. Fateci caso. L'unico argomento di anche non si parla nel nostro paese è il rapporto tra bene comune e proprietà privata. Il modello su cui loro hanno puntato è quello dell'accumulazione privata, del consumismo universale, del conti se hai, se il conti se appari, conti se hai, ma poi se sei una persona l'essere conta molto meno. Lo sviluppo della persona umana di cui parlavano i costituenti era un rapporto integrato tra persona e natura, tra persona e territorio, tra individuo e collettività, tra montagna e persona, tra mare e persona, far diventare il mare un luogo di sangue, il porto chiuso. Ma come si fa a pensare di sigillare il mare? Come dice, è proprio una cosa incredibile. Allora, di fronte a questo bisogna rispondere in un modo semplicissimo ma assai rivoluzionario: restare umani. Cioè, a me non interessa, ve lo dico sinceramente, tutto quello di cui stiamo parlando in termini istituzionali, di consenso e cosa porta. Io credo che se noi riprendiamo la strada dei valori costituzionali, dell'umanità, della solidarietà, della fratellanza e della giustizia, non so se vinceremo, ma sicuramente avremo lottato e quindi potremo vincere. E male che va, alla fine della vita loro hanno odiato e noi abbiamo amato. Questa secondo me è una cifra importante. Guagliù, a Napoli è successa una cosa esagerata. Tenete presente quel barcone? Con 49 migranti che nessuno voleva! La Sea-Watch! E beh, questa gente è stata 20 giorni in mezzo mare. Si sono fatte Natale, Capodanno e anche la Befana. Un freddo pazzo, senza vestito. Senza dignità. E nessuno si voleva pigliare. Chi strune boh, chi l'ha da ritro, chi l'ha da nuzia mai. Oh, ehi! Ma chi l'aiuta sta gente? Siamo uomini o animali? Siamo bestie o cristiani? Siamo uomini o caporali? Noi siamo napoletani, sappiamo cosa vuol dire emigrare. Come faceva la canzone? E c'è una costa lacrime st'America. Hanno i napoletani. Fanno i cacciagni in mocele Napoli. O mia madre stupana, Bravo! Grazie. È bastato un appello del sindaco sul sito del comune di Napoli che... Ma che succede? Ma vuol dire? Niente di meno, in una settimana hanno risposto 12.000 persone. Una risposta ogni 25 secondi. 25 secondi? Avvocati, infermieri, assistenti sociali, pizzaioli, psicologi, fruttivendoli, marinai e dottori. Persino un esperto in malattie tropicali. E un sommozzatore. Poi traduttori di... L'inglese, francese, arabo e russo. E bambara. Ba? Bambara. Bambara. Bambara! Che è una lingua che parlano i mali. Grazie. Prego. Tutti che sono messi a disposizione. Ma a Napoli non siete tutti disoccupati, né? Eppure i disoccupati hanno scritto. E sentite qua. Sono disoccupato, ma posso donare viveri in piccole quantità. Posso dividere il vestiario di mio figlio di 3-4 anni. Assistenza legale in fase di accoglienza. Disponibilità all'ascolto. A farli sentire parte della grande famiglia umana. Sono emigrato al nord, offro un aiuto economico, il più non posso fare. Vivo con 800 euro al mese, quando va bene, ma un contributo lo posso dare. Mi rendo disponibile, sono un anestesista rianimatore. Sono un comandante e metto a disposizione le mie capacità marinaresche. Ma voi napoletani, non eravate tutti emigrati? Eppure i napoletani all'estero hanno dato il loro sostegno. Francia, Olanda, Spagna e Germania. Fino ad America ed Australia. Tutto quello che è possibile fare abitando all'estero. Vivo lontana da Napoli, ma non posso esimermi. Farò una donazione. Sono in Africa, avete la mia adesione. Perché a Napoli possiamo tenere anche mille problemi, mille difetti, mille paure, come diceva Pinuccio. Ma una cosa la teniamo. Una cosa, Danilo. Una cosa grande. Preziosa. Unica come il Vesuvio e immensa come il mare. Dell'Imbogor. Ogor. Ogor. Ogor. Ogor. Ogor. Noi non vi lasciamo morire in mezzo al mare. Non vi lasciamo solo. Non esiste proprio. A domani ne lui, mangi ne pure tre, non c'è problema. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.